Mio figlio, si sta cantando. Nicolas, ti senti un radio? Sono con più poco di tomare un bisogno, carebbo. No. Mio figlio che sta guardando un video stava cantando. Andà bene. Vabbè, io vado a bermi un Bertino che mi hanno proposto, ma forse domani, non so se me ne ricordo se verrai tu oggi o domani. E io me l'ho ben fatto. Sì, mi hanno detto che è un bel buono, adesso lo assaggeremo domani, vediamo. Sì, buono. Buono veramente. Sì, domani assaggio il limoncino anche, te qua, fuffia. Ma che io lo so fare? Il mirto? Ma io non lo so fare, vabbè, non credo che ci voglia chissà cosa a farlo. Basta sapere le dosi, mamma lo fa sempre. No, il limoncino so fare io, il mirto non l'ho mai fatto. Ho capito. Tanto vabbè, provate lei quella roba là. Una cannonata. Ma, dai, sono reali, a voglia, sono reali quei con la memoria. Sì. No, da. Devo procurarmi qualche cosa in più, però già va bene. Ollu, Luca, ti ho mandato una foto su Messenger per me. Guarda chi è. A me? No, a Luca, Delfino Curioso. Vabbè, tu, se ci sei anche tu te la mando anche a te, aspetta un attimino, se ti trovo qua su Messenger. Sei tu. Aspetta un attimino, perché Luca forse mi ha conosciuto così piccolo. Vediamo, noi, Lu, ti ho trovato anche a te. Signore, ci mai molto in retromarcia andare zì? Sì, era buffato, ero Iglesias lì, avevo 3 anni. Iglesias, se magari erami un pari puro, perché io pure Fabio siamo stati a Iglesias. Provarsi. Non ho fatto 11 mesi. Ad un sanatorio. Avevo un'infiammazione ai polmoni io, quando ero piccolo. Sì, anche noi siamo stati lì. Sì, che le orecchie te le hanno fatte lì. Anche mio padre dice che c'è stato lì. Tu vuoi che metterati le orecchie? Che tagliare? Allora hai sentito la barzelletta di Benitur, che quando ti dava gli orecchi cresceva un'altra cosa, quindi non eri mai contento e tiravi. Anche mio padre c'è stato lì. Ah, di quelli sì, hai visto. Hai ascoltato la barzelletta di Benitur e pensavi che ha funzionato però. Sì, no. Eia. C'è stato anche mio padre lì. Vabbè, io avevo 3 anni. Io parlo del 1973. Non lo so se in quegli anni lì. Penso di sì, però, perché più o meno c'è l'età vostra. E c'è stato anche lui ad Iglesias, mi ha raccontato. Dice che le suore erano cattive. Sì. C'è stato un breco, se non mi sbaglio. Io mi ricordo Suor Laura. Registrato il breco comunque. Suor Laura era... Insomma, si dava da fare, dai. Si faceva rispettare. Chi è il breco? Avanti. Ciao Tino, Massimiliano. Mi dà un controllo di segnale? Ciao Massimiliano, quasi 9.30. Addirittura. Ho sceso giù un'antenna grande, ho messo l'antennino, la 5000 turbo, di vettura, là, di un'antenna piccola. Ah sì, scusami Massimiliano, ho guardato di sbecco, ero. Sì, quasi 9.22, con picchi positivi vai a 9.25. Ok, va bene, grazie. Ciao. No. Comunque, va bene. Stai usando 44? Sì, gli ho collegato la 5000 turbo, un'antennina di macchina. A voglia, va bene. Ciao Massimiliano. Ciao a tu. E allora arrivo anche a Sassari, va bene. Ciao a tu, Massimo arrivo, giusto? No, va benissimo. Massimiliano, magari hai un po' meno di ricezione, però la mandata è buona, Non so, tu mi arrivi 9.10 per esempio, prima arrivavi quasi a 30. quindi la differenza già c'è là. Infatti ho detto, la mandata tua è buona, magari hai un pochino meno di ricezione, ma già ascolti lo stesso. Ok, grazie mille, dai, ci sentiamo, grazie ancora, ciao, buona serata a tutti. Ok, Massimiliano, mi ascolti tu, bene? Sì, un po' bassino ti ascolto, ma io ti ascolto, non c'è problema. Per il re. Massimiliano. Oh, dimmi, a Luca non lo ascolti. A chi? A Luca. A me non mi senti. Sì, ciao Luca. Ah, ma se non mi sentivi, tu stavo, cazzo, tanto non lo senti a me. Ma io non mi gioco, ogni te sei per il re, non è che tu per il re. Tutti siete per il re. Allora, ok, va, mi stavo imparando, ciao, grazie a tutti, ciao ciao. Miau, miau, miau. Ciao Massimiliano, io pure ci sono un po' carino, meno, mi faccio rispettare, mi faccio sentire un pochino, pure se non sono tanto all'avanguardia, però. Già va bene, tu già ti sentiamo, futidini, tanto, per quello che c'è in giro. Ciao, la mia Ringo Starr già funziona bene. Cos'è, ricoperta da cacao? Cacao? O tu? Ma che vernice è quella? Perché così? Perché la vernice così? Cioè, bisogna farlo uscire così, dai. Ah, ho capito, perché adesso guardandola bene, perché poco fa non l'ho guardata bene. Basta ascoltare anche l'audio invece di guardare solo il video. Cazzo, chi l'audio hai mandato? Ma come è dato, faccio? Va bene, dai. Adesso mi guardo la mia, ascolto l'audio, dai. Ci sentiamo dopo. Ehi, è un video che ti ho mandato. Sì, già l'ho visto, però non sono stato attento, adesso guardandolo bene. Ho visto praticamente, si vede che è un colore blu, con delle puntine. Sì, effetto sabbiolina, dai. Uno poi lo può fare più o meno grana grossa, dai, dipende da come li fa il trattamento. Ho visto, va bene, dai. Ottimo lavoro, dai, ci aggiorniamo dopo che devo andare a preparare qualcosa per mangiare. Stavo ascoltando il TG, riprendi Anto. Capa, stavo guardando questa cosa, bello Bello no Anto? Capa, molto bello. Niente, bello dai, già te le tiro io le orecchie, già è uscito bene. È che io sono per le cose tradizionali, l'avrei fatto grigio, ma è uscito bene lo stesso. Gli ho detto anch'io, farlo al colore originale, invece l'ho voluto fare qui, io ce l'ho 50, capito? Ho preso la Gianni Capri, ma è originale, proprio originale, tutto cromato, così, no, quello lì era troppo messo male, ti capito? No, ma è uscito bene. Poi vabbè, ognuno, gusti e colori non si discutono, se a lui piace così, tanto di guadagnare. Tanto me la rivendi, dai, capito? Gli ho dato un po' di cose, dai. Adesso devo fare il microfono, il gelato, non so quello come farlo, è un colore grigio brutto, grigio, non si sa che grigio sia, si chiama che quello devo verniciare. No, è beige il colore originale, il mio gelato è beige, e dove c'è la capsula è tutto cromato come l'MC60, il suo colore è beige. Beige, sì, beige. E tra me pare che lo vernice giù su burro, intanto c'è qualche graffettino. Poi me ne hanno dato 3 di ghisci, sicché, però quando lo metto in vendita, gli altri mi sa che me li tengo, i gelati. Se ci metti su e bevi, tiro l'uno e sto vendendo. No, funziona bene, te l'ho detto, se c'è una radio che spinge con Mickey Game funziona bene quello, e lui, tienilo uno almeno. Dai che mi sposta i fornelli, riprenditi. Ehi, ho fatto in carica il telefono, ma non carica, mannaia. Va bene, non va, mi dispiace, peggio per lui. Ehi, oi. Ehi sì, attacco l'astro, ambaravati di cocco. Luca, io li vuoi. Ti piacciono le luci mie, Luca? Ma io stavo dicendo che si chiama il maschio Pippo e la femmina Pippa. Proprio non li fate una pippa. Che fantasie. Quindi fate pure le pippe. Per carità. Nicola si chiama, no, si chiama Caramella. Oddio, allora fa anche le pippe. Così è, pizza e pippa. Che carità. Ui, ui, pizza come? Chi è che vuole fatto dei tedeschi? No, già mi fatto io che non è tedesco, è inglese. Le sono reato questi. Ah, Gianni, dolli, chi si fa questa specie di comodini o ti? Certo, ne ha fatto 9, 3 sono andati male. Sembra male. No, ne abbiamo avuto un giarata, no, qui. Ma ce l'hai tutti e tu? Si è partorito, allora, ha partorito quanti giorni fa? 3 giorni. L'indomani ha partorito la cavia. Cazzo, tocco, allora facciamo lo zoo. No, io se sento qualcosa te lo dico, ma io no. Oh, assolutamente, mio genero ce li ha già, i cani io ce l'ho, se no... Kappa Kappa, riprendi Antonio, mi allontano, ciao. Sì, a Kappa mia. Hola, ho spento l'altra radio, ho acceso questa. Alla Bex, alla Bex. E Antonio la vuole una cavia. Una cagna? Una cavia. Cosa me ne voto? Esperimenti. Gli pulisci il culo quando caga. Sono che cosa, no? Vai, cosa me ne faccio? Non ne voglio di male in casa, no? No, no, no, purtroppo no. No, non avrei il tempo di tenere gli animali. Cosa ci fai tu con la cavia? Gli esperimenti. No, vabbè, sono animali da compagnia e ci devi stare addosso, nel senso che allora nei primi giorni ti devi far conoscere, quindi devi prendere, accarezzare, giocare così, e poi una volta si abituano a te, insomma, le puoi anche lasciare nella gabbia, dargli da mangiare e basta, ma che... Ti cos'è un mosso chi sei io, via? È poco più grande di un criceto, mi. Tempo fa dicono che se le mangiavano anche, lo sai. Perché? No, che gusto hanno? Non l'hai assaggiato ancora? No, ancora è magra. Certo, anche la pelliccia è bella. Soprattutto la pelliccia, no, ma sono animali troppo docili, sono belli. È che effettivamente si riproducono in una maniera, cioè finendo il parto, diventando grandi i figli, arrivando di nuovo incinta, adesso ne ha fatto 4. Solitamente ne faceva 3. E già sono. Già 10 ne ha fatto questa qua in tutto. Ma con dei dati assegni familiari. Se li tieni in casa, se non li dettini, no. Ma quelli come ti conigli il vaso? Non sì. Ma perché non li separi tu? No, ma cosa separo? Il maschio e la femmina sono sempre assieme, mi è rimasto un figlio maschio e infatti si è dovuto fare il padre, adesso lo devo fare fuori, nel senso che lo vado a casa degli animali. Bene, sentiti un po', poi ti sei sentito con quella persona là? Con quella persona là, quella che sabato mi ha mandato quel video. Eia, gli hai dato conferma che non la volevi e poi ti sei sentito per domani? Sì, sì, io ho fatto tutto nel messaggio, gli ho detto anche per domani c'è andare a prendere quel materiale là. Ha detto che va bene che la dà via e... però si tiene il tettuccio apribile. Comunque, puoi togliere anche l'insegnami, giusto se ci devi rimanere, capito? Hai la possibilità di fare anche quello lì. Tanto vai solo di va, ti dà roba prima, seconda mano. E poi, infatti, possiamo vedere se vuole fare anche le cose, le parti alte. Deciderà lui, a voi curare il vini. Aspetta, chi è che mi manda i messaggi? Io per gli animali non ne avrei il tempo per tenerli, per farli, io che non ha tempo in occhio. Poi tutta la settimana che lavoro. Lo so, anche io, non è che, infatti, adesso vediamo, però diciamo che un qualche minuto lo devo dedicare perché giustamente essendo in una gabbia, insomma, sporca, lo devi dare da mangiare, quindi li devi travasare da una parte all'altra, devi pulirli, insomma. Io addirittura ne ha fatte, le metto anche nel prato, quindi li faccio bruccare anche l'erba del prato. Ci devi fare un po' addosso, se vuoi, se lo devi tenere un conto, sono ciccia. È come i classici criceti, però sono più grandi, più bellini, più docili sono. Il criceto invece, se non ha, ti può anche mozzicare, più di una volta mi ha mozzicato. Ma razzurri. No, questi invece no, questi non mordono niente, però hanno i denti come criceti, Poi io dove me le metterei, che ho a casa piccola, animali, e un dì. Già sono belli, dai. Vediamo un po' cosa c'è in giro. Ma chi è avanti? Io ho avuto i criceti. Ma non mi dire nulla, boh. Le cavie già sono belle, però non lo so. Ehi, Lu, sono per gente che ha voglia di compagnia, dai, una volta, quando l'ultima volta mi ha telefonato questa signora, Littiri, questa non la conoscevo, non sapevo niente. Mi ha chiesto informazioni per quanto riguardava questa carne. Mi ha tenuto più di tre quarti d'ora, se non di più, al telefono, raccontandomi i fatti suoi, della mamma, dei professori che ha conosciuto. Mai c'era pure la gabbia, sì o no? Doveva essere metro quattro. È una signora anziana. Ma se allora no. Pensavo che era giovane. E cosa vuoi fare? Fatta che ucciso. Vabbè, anche loro hanno bisogno di raccontare, di ricordare, dai. Va bene signori, dai, che mi mangio un morso e poi vado a fare nanna. Ciao T, ce la risentiamo. D'accordo, ciao alle 22 al Coltone, Luca ci sentiamo domani sera quando rientro, vedi, scendo prima a casa e poi te lo salgo. D'accordo, ti va bene. Va bene, la chiudo anch'io, vado a vedere un po' di televisione, c'è iniziato qualche film. Forse c'è il film Tutta nana. Non si sverranno. Scappami, io troppo come si gioco. E via. Anda Bex, ciao. Buona serata. Ma no, vabbè, mi si gocco, sono già cuccato, mi nonno. Tanto grazie il camerale, sono baracchino. Se metto le pigiamon, ai mamme, please. Io sono già in pigiamon, è già dentro il lettone. A me che si dice già, sei già nel lettone? No, e sto mettendo le pigiamon, un attimo. Ti porti il fisco appresso. C'è un fisco appresso. Io? C'ho il fischio, vero? Adesso no, prima sì. Guarda, 1, 2, 3, prova, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso no. Ma chi è con queste? Io sono. Non mi piace, tu ne ripeti troppo, non mi piace. E infatti lo tolgo. E non funziona bene, buco. Ma dove? Le Galaxy? Eia. E si può regolare? Là dietro c'è una molto meglio. Come le faccio il malissimo? Abbassa tutto quanto e dopo comincia da lì. Allora, ma è così, non mi sento io. Hola, hola, hola, hola. 1, 2, 3. Come? 1, 2, 3, 4, 5. Così fa, dopo che finisci parla. Così è il minimo. Sei sul casino che si sente, televisore acceso c'è. Aspetta, lo seguiamo. Così al minimo. No, tu lì. Se vuoi ti registro, così fa. No, non mi piace, non c'è un bugato. Stai meglio così, va meglio così, là. E io. Come se tocca nelle cuffie io? Lo so, basta che lo attacchiamo a parito. No, no, sempre con l'Alex, c'ho le cuffie inserite. Lo spinotto da loro a serio, con le cuffie. E lo senti? Come fa a sentire? Allora c'è l'ascolto. Come ho toccato il microfono, ho fatto un modo che io mi sento, anche tempo fa, quando avevo il Galaxy, anni fa, avevo fatto lo stesso attacco, mi sentivo nelle cuffie mentre parlavo, e sentivo anche gli altri. E cosa avevi fatto? Ma, ti dirò la verità, ho collegato i fili e mi sentivo. Così ti è uscito, forse era la partita del microfono che ci avvi. E cosa, so che qua mi sento uguale, perfetto. Sento la voce mia, tutto, la televisione, ogni miracolo, se ne pare a maglia, tutto. E Cucciucci come sta? Quello marroncino è terribile, ragazzi, c'ha un anno e un mese, tutte e due, ma per carità. L'altro è più lungo, è tipo Bassotto, fa 10 anni, è bonaccione, ragazzi. Ma sono bravo, si vede, anche a me mi hanno fatto le feste quando sono arrivato. Un po' di compagnia che fanno, via. Poi la coccolina, quella che è accoccolata su di me, quella marroncina, la più piccolina, diciamo, sa sempre che non avesse dove di grembo a me, essere coccolata. Le lattughe cresciute so. Le lattughe cresciute so. Sono sempre uguali. Con cime ci vuole, è terra, perché se non trova terreno, e chi dà la ragione. Il coso giallino mio. Ma passa appena, che sennò è troppo forse con il gusto. Aspetta, ecco tu. Adesso stavo tornando del giallino. Ehi, dell'orto. No, ha fatto un bel pomodori, ha fatto poi citrioli, ha fatto poco roba, adesso non c'è più niente. È tutto tutto? No, c'è tutto, però non c'è, invece però stavo scendendo l'orto. Tutto lo metto in giro, ma non ce la faccio già, niente, lascio stare così perché quando non mi opero, non riesco a fare più nulla, devo fare alcuni lavori, non riesco a farli. Via. No, io ho piantato i pomodori a grappolo, che mi sono cresciuti, poi ho piantato, presente quei peperoni, quelli rotondi che si fanno ripieni col tono. Gappa. Ho piantato quelli. Tutto da internet, guarda, basta che li spacchi in due, pomodorini lo stesso, li spaccati in due, messi sotto a terra e cresce la pianta. E buono di ciliegia. E io ciliegia. E io ce li ho quelli lì, nella scatola. Quindi le spacchi due sotto a terra e crescono. E ne nasce ogni giorno, sino a quando, sino a un bel po' di giorni, sino a uno o due settimane, ne nasce sempre ogni giorno. Si marcisce e cresce la pianta. Non lo sapevo mica. Se lo devo pulire prima, dentro l'orto. Perché mi sa che lo facciamo così. Tanto io non ne mangio sì. Ma l'ho comprato per farmi due spaghetti così, padella, capito? Basilico, pomodorino. Ma poi siccome sono addietro ho eliminato la pasta, quindi mi dispiace. Vabbè, se ti vuoi fare un pesce alla pizzaiola ci metti il pomodorino, fa un pesce pulito. I capperi, il pomodorino, un po' di origano ed è buonissimo. Vabbè. vediamo, penso che durano fino a alla cagnetta sabato, mi sa metto lì sottoterra, buonanotte. Ma poi è periodo di che cosa pianta la volata? Oh, io l'ho detta da Britti, guarda su internet che te lo dicono quando è il periodo, dicono su internet ti dice tutto, è tutto quello che lui ti dice, tu dici qual è il periodo che si pianta nei pomodori, te lo dice. Ecco, non da bene, non c'è nulla di questa visione. Ma non ci sono le iene oggi. Ehi, ma non sto fatto, non ne guardo più le iene. Io guardo sempre canale 9, di solito, Discovery, oppure guardo solo 52, su di Max. Anche io riguardo che canale. Però le iene lo stesso a me mi hanno un po' stufato, perché i servizi sono più o meno lo stesso, quelli di droga, quelli di truffe, sempre gli stessi sono i servizi. E quindi poi alla fine ti stufi per le stesse cose. Ma infatti non ne guardo più per quello io. Niente, dovevo mettermi il fine settimana, mi sistemo tutta la stazione, rifaccio tutto il capo. Oh già, non ho giocato punta, punta e capo. Adesso me lo sono guardato e ho detto, ma ha fatto in ghida, è giusto un po' tutto, e poi mi ripassa la gara. Ma sai che cos'era il Galaxy? Ci avevo praticamente, avevo commutato nell'SCP, e poi commutando di nuovo in AM, l'ho messo a metà tra USB e AM, per quello facevo quel difetto. Incapita. E quindi cosa hai fatto per aggiustarlo? Ho girato la manopolina solo, l'ho messa in AM, è bene, perché era tra USB e AM. Penso che sia quello, perché da quando l'ho fatto non lo stavo facendo. Io sono stato quello, quello senz'altro. Quindi io quando accendo il Galaxy, perché non è ogni giorno che accendo il radio morto, capito? Mi fa un pochettino l'autoparlante e tutto... e poi si riprende, forse è salubrità, non lo so, boh. E poi sta la mobilità, non è un foglio, boh. Nell'aria. Eccolo, può essere QRM, da qualche cosa, può dipendere anche da qualche, dalla corrente elettrica. Io ho un palo sotto casa, ma tu ne ha così, però lui se ti appoggi ti dà la scossa, senti il sabbaldi, il rumore della corrente elettrica. Sì, ma se ti appoggi della corrente, il palo esterno. Il palo che c'è di illuminazione nella piazzetta, quando salgo col cane fa un bel forte. Ma che giorno vengo col cieco a farsi? Perché se si accende, chiamo immediatamente l'ENE e lo facciamo riparare. Ma lo rumoraccio, gli altri non lo fanno, solo quello. Sarà il reattore che c'è, che sta andando a casino, sta andando. Boh. Infatti io non mi avvicino mai, tiro anche il cane quando si avvicina perché è pericoloso. E una volta non è successo che questo ragazzo si era appoggiato al palo perché era stanco, stava facendo punti, era stanco e si è appoggiato al palo, sai come fanno che allungano la gamba per stiracchiare bene i muscoli? Si è appoggiato, cazzo, si è rimasto, però dato la scossa e il palo è rimasto attaccato. Pericoloso. Ma invece mi ha raccontato che alla Maddalena in cantiere questo tipo è andato vicino al quadro elettrico e si è appoggiato perché gli è entrato un chiodo con la mascella nel piede, come ha alzato il piede, l'altro compagno suo l'ha visto e dice cazzo la cosa vegliando, è andato con un testalino, l'ha tutto di mio ingotto, via che le faccia altri gocci. E io ce ne so, una mascella con un gioco d'assaggio che è entrato nelle sue trombini e che ha passato le gocce. E io ti sei attaccato e formava pure formiando, dice lui da reggio. Allucinante. È successo anche a me, lo sai, con del chiodo. E mentre faceva nasce le pedane, ce le presenti. E le tagliamo a volte per tagliare i zingari, a portarceli via, quelle che non servono, non l'Europalet, ma gli altri. C'era un chiodo e non me ne sono accorto, una trappa col chiodo, cazzo, che c'è entrata dentro la scarpa e mi ha appunto anche il piede. E fazzi male, altro che scarpa turistiche, inizio un buca tutto, finza la gara di buca, da sola volta. Ce l'ho provato anche io quando ero a Fiume Santo, una volta mi è successo, ma via. E poi come primari, cazzo, poi non sai cosa fare, se sei all'aperto che non c'è un posto da buccio, mamma mia. Ma è un casino, perché l'Italia. Io gas ce l'ho sempre, non me lo tengo, mi piace troppo. Poi invece Manuele se l'ha dato via l'altro. Ma con la modifica? Ehi. Che bello quello lì, ci bomba forte. E poi cambiava i colori, cosa l'illuminazione c'è per lo smitter, bello a me. Vabbè. Che volta l'ha preso tu? Perché non l'ho mai saputo, l'ho saputo quando sono andato a trovare, ho detto, è un burattino, è brutto. Quello non l'ha mai vista, sta sempre comprando per lei. Allora, sempre una roba che pareggia, poi vende, che è un affarista, compra, vende, compra, ciccio che. E quello andava bene, mi affari, che usciva un bel forte. Io, già va bene, ma... vabbè, non ci vuoi fare. Ma io volevo modificare qualcosa qua, però non posso fare niente sin quando non mi opero. Me l'ha detto il dottore, dice, ti trovo l'ernia, vedrai tu, stare meglio, però devi scendere un po' di peso, perché si potrebbe riformare. Poi sicuro, allora io sono già a dieta, già 5 giorni. E poi devi stare almeno 3 mesi senza fare fatiche, senza sforzi, senza nulla. A riposo, 3 mesi almeno, penso. Ma non lo so, io pensavo una settimana e due. Non è così. Ma lascia per quello, a me, per quello che ho avuto, mi hanno fatto aspettare 3 mesi prima di prendere la macchina, io l'ho presa un po' prima, dico la verità, ho rischiato, perché ho rischiato, un po' prima l'ho presa, ma per le necessità, che se devo fare la spesa, come ti verrà a portare a mano, piccio. Vedi, io ho messo in campagna, cosa posso? Comunque mi fa meglio adesso quando io mi posso muovere. Vabbè, la vita al limite, te lo dico. Intanto un mesetto me la farò di riposo, mio. Ah beh, è certo che si non puoi andare a lavorare, di certo così. Allora. Oh, il busto, tu pensa che noi abbiamo il rimborso dell'80% al fondo est. Avevo fatto la risonanza magnetica a 150 euro, più il busto, altre 110, 260. Ho fatto la domanda al fondo est, totale, gli dovrò tornare 208 euro. Insomma, da giugno fino a, cosa può dire, 3 settimane fa, non ho ricevuto niente, ho telefonato, mi ha detto sì, ma... La risonanza magnetica... No, non la rimborsiamo. Aspetta, al telefono, cioè. Eccomi qua. Ehi, aspetta questo casino, si capiva cosa è. Il telefono. Però stavo dicendo, ho perso il filo del discorso. Il fondo è... Ah, e mi ha detto, no, non le rimborsiamo la risonanza magnetica, quello che ho speso, cioè 50 euro. Perché lì è andato da un privato. Ha detto, scusi, io l'ho fatto a giugno. E qua all'ospedale mi facevo andare e uno il primo che ho trovato me l'ho fatto fare la risonanza magnetica e mi rimborsiamo solo il busto perché è convenzionato da noi. Vabbè, finite per la luce e mi sono arrivato quando ieri 90 euro, ah, la biglia luce. A me invece non mi hanno rimborsato nulla, gli ho mandato tutte le spese, tutto quanto e non mi hanno manco risposto, fatti di me, ma poi questo è lo stesso ciò che io ho detto loro mi ha detto lei la persona deve fare qualche visita, cosa ci chiama noi e noi diciamo dove deve andare. Se lei ci chiamava per la risonanza magnetica lei spendeva 30 euro non 150, ma vattene a fare culo, vai, cioè io se mi sento male per sapere come mai quest'era mi fa così male, infatti ce l'ho altre due piccoline, una quella grossa e che mi dà fastidio, cioè l'ho fatto perché il coronavirus all'ospedale potevi andare a giugno, era un casino. Quindi il primo che sono andato sono andato, me l'ho fatta per sapere in realtà cosa c'avevo. E poi tu non mi rimborsi che... Ma pegatele le culo, guarda, per carità. Si mangiano di là i buoi taglietti. A me hanno detto lo stesso, lo sai, che ci sono quelli convenzionati con loro e bisogna andare lì. Girelli, cioè me stiamo scherzando, io già avevo dolore, sono andato, ho telefonato, prenotato, sono andato per la giornata. Da un... Cosa? Da un... No, è stato a pantalone, dicono, non metto, quanto ero robusto, mi ha misurato la circonferenza della pancia, glielo ho detto, dice no, non c'entra. Ma in cazzo metti, macchina dei minori. Allora te l'ho fatto giù a pantalone, centro benessere. E mi ha detto sì, venga, senza nemmeno misurare niente. Abbastanza grande quella macchina io là. E vabbè, pazienza. Se trovi nella macchina. E il capo, se si rompe un sotto la pancia. Boh. Ma dimmi tu. A me me l'ha fatta. A me me l'ha fatta per il ginocchio. Mi ha fatto stare un'ora. Un'ora e più. Mi ha fatto stare facendomi la risonanza. Ma sei entrato tutto dentro il cilindro? No, la testa solo fuori. Io tutto dentro. Tu pensa che il cilindro era siano 5-6 cm dalla faccia mia, dal naso, fatto il conto. Il braccio l'ho potuto spostare, ho detto dritto, mi hanno dato una parete in mano che se mi sentivo male schiacciavo solo quando mi tiravo fuori. Ho detto c'è caldo, allora mi hanno messo un po' di aria e sono stato roba di 40 minuti, mi sono dormito. Anche io mi stavo addormentando, però mi facevo male in braccio, non si muova, stia così fermo, tranquillo. Cazzo, mi stava facendo male in braccio, non potevo manco muovere. Sì, ma mi stiamo addormentando già perché fai pressione, c'è cosa che non ti può muovere, c'è cosa a faccia, capito? Poi se uno soffre di claustrofobia, chi mi grida? Come minimo sì, ma questa è la seconda volta che lo faccio. Però mi ha detto, quando vado fuori, prima di operarmi, un'altra risonanza magnetica. Ma insomma, se la mia è freca freca, quello Emanuele è già da un anno che ce l'ha, la mia è 6 mesi. Ma in 6 mesi può crescere, possono crescere altre, io non voglio, ma possono cambiare tante cose. Devi fare i mirini. Anche a me me l'hanno fatta fare così, fatta la risonanza e andata all'ospedale con la risonanza. Sì, ma se io vado fuori, lì, continente, la risonanza non è quella base in bagano. Penso proprio di sì, se la fai un privato. No, devo spiegare adesso che mi mandano a farla fare, quindi. E poi il 18 mi opero direttamente, mi sta mandando loro pure anche a fare il tampone. Ma questo è un ospedale privato o un ospedale della OSL? Ma io ho guardato, non è privato, è enorme, c'è scritto Maria Cecilia Hospital. Ma non è privato, se no sarebbe scritto SL. Boh, è enorme come ospedale. Sì, ma mi sta mandando Maria a farmi tampone e cose, mica non c'è capito che già ricaio. Boh. Ma scusa, ma con l'intervento lo paghi? No, me l'ha già detto il dottore, non pago l'intervento, nulla. Bene, allora vuol dire che è convenzionato. Siccome è una clinica privata, magari convenzionata con l'SL. Sì, perché prima di visitarmi mi ha detto scusi, ok, ce l'ho 50 a votare lì. E cosa mi costa poi l'intervento? No, niente, assolutamente nulla. Ok, solo impegnativa, va bene. Quindi ti devi far fare l'impegnativa dalla dottoressa tua prima e poi andare. Sì, ma io mi faccio fare pure l'impegnativa per la risonanza e per il tampone, non so, tutto mi arrivo io. Infatti, di modo che se te la chiedono ce l'hai già fatta, se vuoi non te la chiedono ti daranno. Dottor, ma si può fare l'anestesia locale? Che ho paura con la totale che non scendo più. Ma detto, lo sai che è più pericolosa quella locale? Vabbè, vedranno loro tu. Già lo sanno loro, l'interessante è che trovi la glicemia sempre in ordine, perché a me prima di operarmi mi hanno detto deve scendere la glicemia, deve venire con la glicemia normale. Io ce l'avevo a 96, infatti si meravigliavano come tenevo la glicemia lì, 96, 100, sempre perfetta ce l'avevo, sino al giorno dell'operazione. Io ho mangiato qualcosa in più, ma se no la tenevo proprio perfetta, perfetta. Allora io ce l'ho sempre sotto controllo, ti spiego. Se io la sera non mangio un cavolo, mangio proprio leggero, quasi niente, allora la glicemia è normale, la mattina è normale. Se io mi abbuffo, mi sale un po', capito? Ma se mangi normale invece di abbuffare, ti sale? No, non è normale, 100, 110, 105. Così va bene, non è che puoi stare senza mangiare, tu dici. Qualcosa la devi mangiare, ma senza esagerare. Beh certo, no, mi sono messo a dieta, guarda, basta, la pasta un'altra settimana, e la pizza, se mangio la pasta non mangio la pizza un'altra settimana, mi dico che pasta non ne mangio. Carboidrati niente, patate nulla, e pasta niente. il pane non esiste più. Allora, adesso te lo dice uno che di dieta ne ha fatto una che l'ha fatto scendere 50 kg, no un chilo solo, 50 kg, in un anno sono sceso 50 kg. La dieta si fa diminuendo le quantità, non eliminandole, perché il nostro corpo ha bisogno di tutti i nutrienti possibili e immaginabili, quindi devi solo ridurre e non eliminare. Vabbè, allora la pasta mangio 80 grammi, qui ne mangiamo 200 grammi. La deve ridurre. Io la pasta, vabbè, non la mangio, la mangio solo la domenica, basta. La domenica se c'è gente, se no non ne mangiamo ancora la domenica, mangio solo il secondo, un'insalata, due arancia, perché le arancia me ne mangio sempre, cazzo, mi vede di tutto, me ne mangio due di arancia, anche se esagerato due, dovrei mangiarne una, ma non ce la faccio, una solo non ce la faccio. E poi basta, tutto lì, prendo un caffè, ecco, fate il gioco, a pranzo è fatto. Sì, ma lo sbaglio mio, ti spiego, la pasta, mangio solo la pasta, non tocco altro perché è abbondante. Poi la disgrazia mia è già che mangiamo la pasta la notte, poi mi coricavo e assimilo, ho capito, e quindi avrei avuto, mi addormentavo subito, e infatti mi sbuffo, mi dice dalle 3 mezzo alle 4 non so più sonno, mi alzo, e il fattore è quello, arrivo alle 2:20 a casa, 2:30, non mi viene gana di cucinare, mi mangio una mela, boom, mi zingocco e mi riposo. Quindi faccio un'alimentazione sbagliata, è sbagliatissima. Quindi mia figlia mi ha detto, ma perché non fare una cosa, ti prepari la notte e mangiare prima per il domani? No, per il riso. E poi non mi piace la cosa fatta e cucinata il giorno prima per mangiare domani, non mi va bene. E quindi il casino è quello, purtroppo è così. Quindi io niente, mi limito nel mangiare, mi sono preso le mele come frutta, una mela e basta, poco fa. Mangio mangiando praticamente una mozzarella, un pezzettino di grana padano e poi una mela. Ma questa è la mia cena. E ho mangiato un pezzo di ricotta mustia e uno, due fette di salsiccia. Non ho mangiato altro perché non avevo voglia di mangiare. E le arance, a me le arance sempre mangio, quindi non mi mancano mai, le arance le mangio sempre. Però pane quasi nulla, pane un quarto di panino, ma se tu mangi mezzo panino svuotato dalla Monica, sempre ammesso che non mangi la pasta e nemmeno patate, che roba che abbia i carboidrati, se tu mangi mezzo panino svuotato dalla Monica dimagrisci lo stesso. Ma io la Monica la tocco sempre. Allora, ho abituato ogni, durante le 11, durante l'ora di lavoro, che abbiamo la pausa, il panino. Sono a Venezia di 4 giorni perfetti, quasi 5, perché non mangio più il panino alle 11. E già quello l'ho eliminato. Il pane in casa l'ho eliminato, non solo due fette biscottate integrali, me la giovaniati, non ho più niente. Ah, stasera mi sono accompagnato con la mozzarella, col pane guttiao, un pezzettino, me la giovaniati del buco. Invece il pane guttiao c'ha olio, c'ha sale, c'ha tutte queste cose. Allora, il diabetico non deve mangiare molti fritti, né carboidrati, cioè devi ridurre sia i carboidrati, i fritti proprio quasi devi eliminare, non devi bere più ciò che non bevi, alcolici, queste cose qua sono che devi togliere, e la roba zuccherata, dolci, tutta questa roba, e tu il cioccolato te lo mangi sempre. Ma non è più quella fornetta, un pezzettino e basta. Quando ho detto al diabetologo, mi ha detto che ti hanno ordinato, dottore, no, io stesso un pesettino qualche volta te lo faccio, comunque non è più neanche il cioccolato. E cosa mio, mangiarmi un gelato ogni tanto? No, io il gelato d'inverno non ne mangio. Sai cos'è che mi frega? Le caramelle e la liquirizia. Sono drogato, le caramelle e la liquirizia. La sua famosa di pressione. Ma sono ben buone, cazzo che sono buone. Ci sono le debolezze, poi di adesso mi ha preso anche i crostatini, quelli della San Carlo, quei crostini di San Carlo, proprio sono buoni. Io invece stavo andando pazzo per quelli tipo il cantò con le nocciole, canto mi piace di poi non penso qua solo mi ha smagnato non mi basta sennò a me mi butti troppo zucchero cappuccello non lo so perché noi diabetici io per dire il problema parlo di me dolci non ne cercavo mai non me ne fruttia proprio nulla dei dolci adesso che sono diabetico mi piacciono i dolci te li mangi quando vedo le frittelle al bar. Una volta una persona mi sta allontanata, siamo andati a Trispar, ha preso un caffè, caffè c'era questa esposizione di frittelle con la crema, paste di tutti i tipi, ciabatte, cannoncini, cazzo mi sono fermato da parte e mi ha tirato. C'è il mio collega che è diabetico, è di molto più giovane me. Si vede ma niente di bacio, non gliene ho fatti nulla. Ma su tu sei matto. Ehi, tanto prima o poi devo grimbare, tanto. E se l'ha messo così, ma fa culo. Boh. Niente, io evito che ne appassa a bara al mattino un caffè. Boh, basta, macchiato. Senza zucchero, sono già 5 anni di caffè così. E boh, non bevo alcolici. Quindi, niente, adesso mi ho messo a progetto in testa proprio di non toccare più niente, pane, non nulla, zero. E vedrai esci, piano piano, prima andiamo a operarmi già sento qualche chilo. Tony, il diabete è una malattia miserabile, questo me l'ha detto il dottore. Non si sente nulla, non si vede nulla, poi di colpo sta a gamba. Di colpo, come è successo a quel mio amico, gli hanno dovuto tagliare tutte e due le voci e tutte e due le gambe, non ti dico altro, adesso è morto, però... lui la moglie gli diceva tu non mi va bene anche così e lui dice vai ma non va bene a me voglio morire perché così non posso vivere così gli dice sì ma quando tu ce l'hai sotto controllo misuri la glicemia questa roba qua stai attento eviti è tranquilla la cosa sì ma tu mi stai dicendo questo tuo collega che mangia pasta e uovo anche a me capita ogni tanto fare qualche peccato di gola lo faccio anch'io perché siamo persone umane qualche voglia ci può venire no? Però Tony non bisogna esagerare non bisogna esagerare perché l'esagerazione è troppa cui fa male esagerare lo so io sto attento e poi io ho quel diabete che veniva dopo gli anni 60 non è l'ospedale non è che sono nato col diabete capito? Vabbè, ci devo andare cauto, lo so, anche a me già mi piacciono le paste, cavolo se mi piacciono le frittelle con la crema, guida che dato, però evito, dico pazienza, ne ho approfittato quando ero sano, adesso basta, pazienza. E io prima me ne mangiavo due, facevo la colazione al bar, qualche volta mi mangiavo due frittelle e poi a volte mi veniva la crisi d'astinenza, quando ho avuto il diabete. Cazzo mi fermavo, una pasticceria mi sono fermato quindi a quattro paste me ne sono ingurgitate così, proprio una voglia di mangiare il pasto, una cosa allucinante, come una donna incinta, c'è la presenza. Moffa, dai, allora, se te come per esempio una tavola apparecchiata per mangiare, se non c'è il pane, tu lo vuoi, devo lo vuoi vedere. C'è il pane, tu manco ne tocchi un pezzo, però se ci manca a tavola tu lo vuoi vedere e lo cerchi. E tutte le cose così mi. Adesso aspetta Natale, ti mangiato pandoro, ho detto, che buono questo pandoro, guarda, come sta questo qui col cioccolato? Ma io guarda, qua ho due panettoni, due pandori, un panettone al limoncello, un pezzettino me lo assaggio. La pasta le faccio a meno, mi mangerò un pezzo di porcetto e boh, ci vado molto molto piano. Tutti quanti gli antipasti, i gamberoni, i ghisci, i ghisci, non mangi nulla. No, non mi sono mai ammuffato né di Natale né di Capodanno già, perché mi conosco, no. Io se mangio pasta a forno, porcetto, ghisci, ghisci, poi mi fa male, veramente la parte alta alla faccia, sembra che sto scoppiando, no, non voglio stare male, io mangio leggero, un pochettino, un pezzo uno, un pezzo l'altro e basta, e sono contento così, e mi fa bene, no. Tanto è inutile, ci facciamo lui stesso, se tu mangi la salsiccia, mentre lo devo fare la salsiccia, pure grassa, mica pure, bisogna evitarla. Sì, ma se ne mangi due fettine non è come mangiarti la salsiccia, un assaggio lo qui fa mia madre sai che era arrivata al punto che si metteva la roba in bocca e poi la aspettava per sentire il sapore capito la voglia che aveva quindi di mangiare un dolce lo gustava e poi lo sputava per non farli male ma già già, come c'è mocca che sei in gordo, gangsta. Proprio le bulle ti beccano così, mia madre era diabetica, nel senso si faceva 4 iniezioni al giorno, anche nella faccia ne faceva tutte le parti, era un po' la parola quanto ne faceva. Strano, perché in casa mia di amico c'è il suo, a me quando l'ho ritrovato per il cuore all'ospedale, poi hanno chiamato, c'era questo dottor Fancillo, c'è lì diabete, sta scherzando, in casa non c'è nessuno. No, è un diabete che viene dopo gli anni 60, ne ha già approfittato prima io, che c'avevo niente. Oggi a sera la viennetta con la mia amica qua a Magna, io mi sono tenuto la addosso, vabbè non guardavo niente, non me ne fregava niente, stavo bene, salute. Poi quando mi ha ricordato per il cuore non avevo detto un cacchio di diabete, la falcina che. È diabete senile, ti ha preso lo tipo 2 come ce l'ho io. Anche io sino a 45 anni non c'avevo niente. A me è venuto 5 anni fa, 61 anni circa, quindi, anzi neanche 61, 60 perché mi è successo aprile. Casino, è una malattia che bisogna conviverci, però bisogna stare molto attenti, perché se sgarra te la fa pagare. Io ho operato già tutti e due gli occhi, io sono stato operato di cataratta, tutti e due gli occhi per il diabete. Grazie a Dio, se a me mi fanno tutte le visite comunque, anche ecodroppe eccetera, per le placche, tutto, la vista degli occhi, eppure grazie a Dio non soffro niente. Vista non me ne manca, è uguale, ho fatto da poco l'esame della patente, 10-10. Mi auguro di continuare così già. Quindi, cosa vuol dire? Sì, è una malattia di merda, ma non c'è nessuna cura per la diabete. Ma c'è chi dice che ci sono state delle scoperte, che avevano scoperto in questo ragno del deserto che produceva insulina, e praticamente questa insulina del ragno era buona per far guarire il pancreas nostro, cioè iniettandola questa insulina dice che faceva rimettere a posto il pancreas, però ci sono anche diverse cose che avevano scoperto, ma noi l'hanno mai messo in atto, non c'è mai stata una ricerca forse profonda su questa malattia, non lo so, mi è dato l'impressione che okay, non voglio toglierla fuori, perché le case farmaceutiche guadagnano molto da un diabetico, tra iniezioni, guidasu, guadagnano un sacco di soldi. Se noi dovessimo comprare tutte le medicine che dobbiamo prendere, non sai i soldi che ci vogliono, come in Inghilterra. In Inghilterra pagano tutto, anche all'ospedale quando ti ricoverano, tutto, non ne hanno assicurazione, niente. In Inghilterra e anche in Ucraina la stessa cosa. Anche in America non c'era. È un casino comunque. Sì, perché se in realtà io mi sono filmato, che questo diceva, non lo vogliono togliere fuori perché sennò ci perdono un casino di soldi, è tutta una tattica per consumare di là, spendere soldi qua, là, eccetera. Cioè, ma giustamente allora, io non pago niente perché non pago nulla, perché per la salute giustamente. Però chi paga? Paga lo Stato. Vabbè certo, ma noi abbiamo anche pagato la cassa malattia e tu la stai continuando a pagare, lo sai questo. Certo, e anche quando vado in pensione è la stessa cosa, non cambia nulla. Cosa che in America questa non c'è la sanità, non ce l'hanno. Guarda che una delle migliori sanità ce l'abbiamo in Italia. Sembra così, sembra che ci sia. Però a parte di vabbè, il personale, queste cose che mancano adesso, però come sistema, quello italiano è migliore. Vabbè, aspetta che farò una prova a prendermi questo microfono, è proprio il microfono normale, vedete come esco, aspetta. Come così già? Aspetto lì che me ne stavo creando le confidenze. Ecco, ho messo il microfono normale, così sì. Benissimo. Beh, dai, lascio questo così mi posso sdraiare, ha chiuso con un giallo. E mi fa male. Beh, ci credi che mi piace più questa con modulazione che l'altra. L'altra è troppo forte, troppo amplificata. Questa qua è bellissima, chiara, limpida. E questo è il mic originale tuo, capito? Perché che è al massimo, ma dove è al massimo? Ecco, adesso è al massimo il mic. Adesso è al radio. Vabbè, buona. Buonissima, non buona. Forte, bella microfono. Questo microfono va normale, originale, lo voleva Manuela, perché lui c'è una senza. E ho detto no, non te lo posso dare il suo originale, ma stiamo scherzando. Io ce l'ho, ma è ancora pubblicato lui, è ancora nella busta. No, è buona, buona, non è sempre di gente che c'è per il microfono normale. Esce bene, presente come esce il mio Galaxy. È il mio normale il microfono. Questo che è la stessa cosa. È normale, esce ben forte. È molto originale comunque. No, è un apparato che ha tutto, diciamo, della 27 e niente, ed è bello come composizione, come l'hanno fatto, frequentive, trofanali, due filter, rotto, provato, ma tutto ciò. A me piace moltissimo. È completo come apparecchio, molto completo. Non le manca nulla. Tutto ciò che uno desidera, la panna laterale, i canali sopra e sotto, insomma c'è tutto. Tutto quello che uno potrebbe mettere in una lampada 8 per farlo diverso. Il Galaxy è quello, è questo qua. Io l'ho sempre amato, ne ho avuto 5 Galaxy. No, io come il secondo che ho avuto. Però c'è Bip, Lecco, insomma, non manca niente, guarda. Attacco per il cuffie, e poi abbastanza loro sono fatti il centro del tipo di Cagliari, e poi neanche fa la forza, poi farò se ci fa giuro forse come con lui, che è OM abita Ucchia. E dato il Cagliari c'è, poi dice che anche io ho incontrato, sono ancora più da visto il Galante, addirittura, hai visto quanto è piccolo il mondo, comunque. Sono soddisfatto, guarda, sono dato il suo codicito della banca, ho fatto 200 euro, più 20 euro di trasporto, 200 euro. E come ha detto, guarda, sono forse 12, dopo 2 giorni mi è arrivato fino a casa, lo guardi. Hai visto, è stato così, non conosco a Stefano, siamo molto amici con Stefano. Sì, lo conosco da ragazzo proprio. Una vita perché Stefano suonava le confesse del mio cugino e io andavo con loro per il quinto ecco da fare la prova sotto. E anche io lo conosco da tanto tempo, da un bel di anni, sarà minimo che lo conosco, sono 40-45 anni che lo conosco. Era tutto quello che posso dire anch'io. Io conoscevo anche, che abitava a Palazzorge di via Tre Sacchi, Giorgio Pietrasanta, non so se l'hai conosciuto. Quello che va a fare della Feri, sì sì. E poi è morta anche la moglie, la figlia è drogata, la tua vita si è ributtata da una parte all'altra. Cavolo, se l'ho caricata in ambulanza io, una volta lì, ti ricordi dove c'era l'Indianapolis prima. Ma io vedo spesso adesso piazza col cuore, poi adesso vedo spesso di trovare i pascoli di fronte al tabacchino, a dove c'era Crai. E l'ho visto anch'io. Ma qua poteva registrare non solo senza maglietta, senza nulla, solo. Anzi no, là c'è la porta. E da chiesa spiccioli qua, una volta, tempo fa l'ho trovata in piazza con la Mariana, si è avvicinata, e mi ha fatto. Sono orfana qua, là io mi chiamo Daniela Pietrasanta, era di Porto Torres, io conoscevo suo padre, non mi conosci più a me. Veniva con sé però il padre tua, mi è interessato. E poi è venuto da più spicciolo, ho detto guarda veramente, ci ho fatto male, non mi sono. Senza che ti passa, ma ripasso pure, ora mi sono passato. E neanche a fare la foto, quando sono venuto da lì, mi ci avvicinato un ragazzo che aveva studiato lì all'Ipsa, che per le croce sto dicendo, non voglio niente, mi con la fai pure drogata. Ah, così è, allora va a fare un po'. Sì, beve Samara. Anche quando l'ho caricata in ambulanza, ha detto che era esaurita, che batteva, che si drogava, lui, poveraccio, che fine che ha fatto. E cantavano lì un'altra ragazza, cantavano, la figlia di Augusto. Cantavano tutti e due, facevano le piazze a Platamona, hanno cantato, erano sui busti, e cantavano anche bene. Ma peccato come si è rovinata qua. E poi che ci dava vita, avrà pure a 10, ma... Poi che te la racconto, va bene. Malata, giusto? No, No, niente, l'ho evitata, l'ho evitata perché questa persona almeno... No, non so mai che dopo che me ne dia la compagnia mia, no? Per capire. Aspetta un secondo che ti chiamo. Cosa? Aspetta un secondo che ti chiamo. Ehi, Gianni? Eia! Stavo di nuovo richiamando. Forse mi dovevo, non ti sentivo più, ma che cazzo è male questo telefono? Ma dicevo, con il rato manca la linea, non capisco cosa sia, guarda. Io penso che sia, da quando ho messo cazzo questa fibra ottica, non mi sta chiamando bene il telefono. Io avessi in pausa, poi non ti sentivo più, tu cosa stai facendo?